Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Caro Gianluca, nella puntata di Melog di ieri ho sentito solo una persona facente parte del tuo aristocratico club ammettere che il mondo è cambiato sotto i nostri occhi e noi abbiamo perso il contatto con la realtà. Tu ieri hai invitato a parlare tre tue conoscenti, ovvero continui a giudicare la realtà in base all'ambiente che frequenti. La confessione di incapacità e stupidità l'avete fatta senza rendervene conto. Avete riconosciuto che l'elezione di Trump non era prevista da nessuno. Difatti, pur avendo dichiarato di essere incapaci a fare il vostro mestiere, continuate a farlo con le stesse modalità di prima. Mai che vi vergognate e cominciate a scendere in mezzo alla gente. Riprendo velocemente il filo della trasmissione di ieri sul pensiero strampalato. Non devo specificare nulla, non devo giustificarmi di nulla, nulla feci di male, non sono un indovino, non sta a me indovinare chi vinca le elezioni degli Stati Uniti, mi è completamente indifferente che abbia vinto Trump o abbia vinto la signora Clinton. Mi è improvvisamente però sembrato fulminante, interessante, esaltante valutare l'immediato effetto, il cambiamento rispetto all'elezione del nuovo presidente, elezione, la proclamazione del futuro presidente degli Stati Uniti. Questo ha sollevato un clima di strampalati, di persone che improvvisamente è come se risorgessero in una sorta di stato di emarginazione e avessero bisogno di rivolta, di riscatto, di vendetta nei confronti di chi? Di qualcosa di cui probabilmente sono associato, in quanto in questo caso intellettuale. Oggi è venuto fuori da questo messaggio, che secondo me è esemplificativo di un modo di pensare diffuso, che la colpa sia tutta degli intellettuali. Certo, sei in buona compagnia. I politici che comandano in Europa vanno avanti imperterriti, come dopo la Brexit. Oppure la Brexit e la Clintonix sono la spia di quanto sia incazzata la gente. Non potendovi sparare, almeno per ora, vota in maniera omicida. E più gli dite come e chi votare, più votano al contrario. Mai mi sono sognato di dire chi votare, mai mi sono interessato di influenzare in qualche maniera le persone che debbano votare. Non mi risulta che le persone che mi ascoltano al telefono, se non alla radio in piccolissima parte, votino per il presidente degli Stati Uniti. Ma visto che siamo nel tema e visto che il tono di questa lettera è anche minaccioso, non vi rendete conto, rendete chi, ancora voglio capire chi, noi chi, noi facente parte di cosa, rispetto a cosa, chi è la gente, chi siamo noi? Qualcuno oggi vorrei che me lo spiegasse, le persone che mandano lettere, che scrivono sms, ma se vogliono possono partecipare, non esiste luogo di più aperta e indiscutibile, libera discussione e partecipazione a questo programma radiofonico, anche perché il finale di questa lettera, che già dice che per ora le persone, non potendoci sparare, ci votano in maniera omicida, vorrei capire chi è chi mi vuole sparare e chi è che questa volontà omicida. Guardati, se vuoi capire il futuro che vi attende, la rivoluzione francese che tanto amate, voi laici sapienti e superdotati, la ghigliottina non fu solo per aristocratici e preti, ma anche per gli intellettuali, gli scienziati, i sapienti. Te lo sei dimenticato, Antoine de Lavoisier? Da Lavoisier riprendo la trasmissione tra un istante, ma dopo la breaking news. Breaking news. Un aggiornamento che riguarda il referendum costituzionale. Era attesa, come sapevamo, la decisione sul ricorso presentato dal costituzionalista Valerio Nida e da altri sul tema del quesito e sulla possibilità di scorporare appunto il quesito referendario. Ebbene, da quello che apprendiamo dall'ANSA, per il momento è solamente un flash di agenzia, quindi ve lo diamo così com'è, sono stati respinti questi ricorsi. Vi daremo sicuramente maggiori aggiornamenti alle 13 in effetto giorno. A più tardi. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Guardati, Se vuoi capire il futuro che vi attende, la rivoluzione francese che tanto amate, voi laici sapienti e superdotati, la ghigliottina non fu solo per aristocratici e preti, ma anche per gli intellettuali, gli scienziati, i sapienti. Te lo sei dimenticato, Antoine de Lavoisier? 80024 0024. Mi sono dimenticato Antoine de Lavoisier? No, non me lo sono dimenticato, era un valente scienziato, chimico, ricercatore importantissimo. Alle basi delle sue teorie ci sono tutte le più importanti teorie anche della fisica moderna. È stato ghigliottinato durante la Rivoluzione Francese. Sarà stato ghigliottinato anche perché era esattore delle tasse, anche perché aveva in qualche maniera svergognato Marat, uno dei maggiori avviatori alla ghigliottina di personaggi, quando anni prima gli aveva, prima appunto della rivoluzione, gli aveva portato una sua invenzione. La Vosè gli aveva detto: ma tu non sei uno scienziato, lascia perdere, cambia mestiere. Infatti ha cambiato mestiere, gli ha mandato a casa le persone per farlo ghigliottinare. Allora, qualche sms immediato rispetto a quanto vi ho fatto ascoltare. Dice: una volta questa lettera avresti potuto scriverla tu, ormai sei vecchio, perché avrei potuto scriverla io? Una lettera totalmente contraria a tutto quello che ho sempre pensato e detto nella mia vita. Una lettera che considera l'intellettuale, cioè colui che porta strumenti di elaborazione e di complessità rispetto a una semplificazione della realtà, che non dovrebbe più esistere, perché è qualcosa che dà fastidio. Dandomi dell'intellettuale sicuramente si pensa di farmi un insulto, darmi un insulto, ma non mi sento insultato, anche se poi non sono un intellettuale rispetto a chi dedica la sua vita all'intelletto, sono ben altra cosa. Sono una persona che comunque cerca in qualche maniera di portare ragionamenti a livelli complessi rispetto alle semplificazioni. Questa è la colpa? Ditemi oggi, chiamando all'800240024, siete convinti che la colpa sia degli intellettuali? La colpa di cosa? La colpa di chi e rispetto a cosa? Però chiamate e parlate, esprimetevi. Non vi nascondete dietro gli sms di minaccia o i messaggi su WhatsApp. Stefano da Sassari, buongiorno. Sì, buongiorno. Premesso che la sento malissimo, ma perché mi hanno detto di spegnere la radio, comunque sento male. Io ho semplicemente fatto... Non è colpa degli intellettuali, è colpa delle linee telefoniche. Prego. Ok, il mio pensiero è molto semplice, mi ricollego alla lettera che avete letto. Sicuramente la persona che l'ha scritta è una persona che ha delle problematiche sue, probabilmente di frustrazione. No, però guarda, posso dire una cosa, non è un pazzo, riassume lucidamente quello che è un pensiero diffuso di cui sto parlando, diciamo, da mesi a questi microfoni. Però io dico semplicemente questo, premesso che già definirsi intellettuali deve essere presuntuosi, però detto questo, io faccio una valutazione molto più generica. Ha mai sentito dire che sono un intellettuale? Lavoro con l'intelletto, non lavoro con le mani, con i piedi, con la testa. Da me si dice chi si tocca male si sente. Io non ho detto che era lei, lui penso che abbia fatto un discorso generale, cioè molto più ampio, e ha inserito lei e tanti giornalisti, quelli che hanno parlato di queste elezioni in vario modo e non solo di queste, come classe dirigente. Probabilmente la critica che io vedo, anche se non so se era nelle intenzioni del vostro ascoltatore, era che voleva dire semplicemente che la classe dirigente è talmente scollata dai vari mondi reali da non beccarne neanche più una quando si fanno delle come possiamo chiamare, delle previsioni. Sono i sondaggisti, hanno fallito, benissimo. Beh, non ci sono solo i sondaggisti, mi perdoni, se lei, non dico lei, in questo caso è un lei in senso lato, se lei parla di un determinato argomento e ne parla erga omnes, è evidente che dovrebbe averne studiato le basi e tutto il resto, altrimenti sono chiacchiere da bar. Se uno lo scrive sulle colonne di un giornale piuttosto che lo dice in televisione, scrive dei blog eccetera eccetera, o è un pazzo sfrenato che si mette lì a dire qualche cosa tanto per dirla, o probabilmente dovrebbe averne conosciuto gli estremi di quelle cose, quindi non ha fatto una buona analisi. Per fare una buona analisi bisogna anche, tra virgolette, conoscere quello di cui si parla. Sì, ma chi è che, scusi, no, faccio capire, quando mi ho fatto un'analisi sui risultati elezionali? No, perdoni, gli hanno mandato una lettera nella quale non si parla solo di lei, si dice lei è. Evidentemente, siccome lei non sposta gli equilibri del mondo, ovviamente come non li sposto io, non li sposta nessuno, singolarmente, però la stava, come posso dire, inserendo in un'elite, in un club, se non ricordo male. Allora diciamo, parlavo dei sociologi, gli scrittori, i columnisti dei giornali. Parliamo infatti che probabilmente il mondo in questo momento vive una crisi della classe dirigente. I mondi hanno sempre avuto classi dirigenti, non c'è di discussione da fare, qualcuno che dirige, indirizza il vivere, il sentire comune è sempre esistito, non una sola persona ma tante, ma si chiamano classi dirigenti, che le classi dirigenti degli ultimi 20-30 anni, non solo italiane ma mondiali, probabilmente non abbiano capito molto, o peggio ancora hanno capito ma se ne fregano. È oggettivo, lo dicono i dati, lo dice una crisi pazzesca, lo dicono tanti elementi. Questo bene, però mi sembra capire, perdoni, che il senso è non tanto chi dirige, chi ha in mano e leve il potere, ma chi magari probabilmente affianca, diciamo così, chi ha in mano il potere attraverso il suo esprimere opinioni, attraverso i giornali, attraverso i media, attraverso il pensiero. Forse questa è la classe in questo momento è più sotto accusa, diciamo i fiancheggiatori attraverso il pensiero di chi ha in mano le leve del potere. Forse così ci capiamo un po' meglio e si capisce meglio. Vorrei capire meglio qual è la colpa in generale del fatto di avere come attività quotidiana il frutto del proprio intelletto e non magari, non so, della propria creatività nel costruire degli oggetti, delle cose. È la vera crisi delle persone che esprimono idee, la crisi quindi delle idee, o in realtà, come dice il nostro ascoltatore, non bisogna più pensare, non ci devono essere più idee, bisogna tagliare tutte le teste, azzerare e partire con i bisogni della gente, cioè della pancia, i bisogni concreti e materiali che chi ha idee non ha capito. Poi questo è un altro tipo di problema. Roberta, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, io pressoché sono d'accordo con questa seconda ipotesi, nel senso che ormai c'è davvero il famoso scollamento tra le classi dirigenti, il potere e i cittadini. I cittadini non sanno più veramente come fare a esprimere questo senso di impotenza. Ora, c'è stato un, non so se era un SMS, un ascoltatore che ha detto, non sapendo come fare a uccidere, no, il potere, chi ci governa, eccetera, eccetera, alla fine hanno votato in maniera omicida, no, hanno votato in maniera suicida, come le malattie autoimmuni, quando c'è qualcosa in corpo che non si sa più come espellere, perché è nocivo, perché è veleno, perché ci fa male, eccetera, eccetera, poi alla fine, guarda caso, si manifestano delle malattie autoimmuni. Sì, però scusi, Roberta, non vorrei generalizzare, se no parliamo dei mali del mondo. Vorrei la cosa che mi ha colpito è il finale, dice stai attento che sta per arrivare la ghigliottina, non perché abbia pure la ghigliottina, ogni giorno ci svegliamo sapendo che qualcuno o qualcosa potrebbe determinare la nostra fine, perché su questa ghigliottina ci dovrebbero stare in realtà quelli che usano la testa, il pensiero, gli intellettuali. Io ho citato Lavoisier, che è uno scienziato, ha citato male perché è stato ucciso magari per motivi non legati al suo essere un intellettuale, perché faceva l'esattore delle tasse, quindi probabilmente la gente si è ricordata quando gli faceva pagare le tasse e gli ha tagliato la testa. Ma perché quando il pensiero dell'intellettuale, della stampa, dei media, dei giornalisti, di coloro che hanno un intelletto forte e valido, comunque si è piegato volontariamente o involontariamente ad un potere malato, diventa disonestà intellettuale. Lei a questo punto, perfetto, lei ha colto perfettamente il problema. Allora, non è in generale che è una colpa o va debellata l'idea di coloro che possono in qualche maniera elaborare un pensiero, far ragionare, deve essere diciamo debellato, però ancora una volta, visto che succede spesso nella storia dell'umanità, colpita quella parte di persone che adattano e aggiustano la loro capacità di esprimere pensieri, quindi di influenzare anche l'opinione generale delle persone, legata comunque a un mantenimento di un potere che può essere vecchio, corrotto, complice delle peggiori nefandezze. Adesso capisco meglio. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, vorrei ascoltare assieme a te un pezzettino di documentario, visto che parliamo per figure, quindi parliamo per suggestioni, riguardo alla fine del dottor professor martire della rivoluzione Lavoisier. E questo è solo l'inizio. Nei prossimi mesi spero di dimostrare di poter ricombinare questa, chiamiamola, aria combustibile in aria vitale e di essere capace di trasformare entrambe in acqua. Arriverò a riprodurre con esattezza scientifica la stessa quantità di acqua dispersa durante il procedimento. La mia speranza è di completare il ciclo. Acqua in gas e di nuovo acqua. Senza perderne una goccia. Questo, diciamo, è la scoperta che cominciò a fare Lavoisier. Si costruiva e si era attrezzato un laboratorio fantastico per l'epoca, siamo 1787, diciamo così, più o meno, e quindi stava lavorando sul fatto che la materia non si distrugge ma si conserva attraverso varie forme. Poi mi dirà il filosofo della scienza Stefano Morigi esattamente cosa ha scoperto Lavoisier. Ma la cosa interessante è che in questo stesso documentario poi c'era la storia che il signor Marat un giorno bussò alla sua porta, gli presentò una sua importantissima invenzione, capito? Lavoisier gli disse: non stai seguendo un metodo scientifico, scusa, la tua è una supposizione, la scienza prevede che tu faccia comunque una serie di procedimenti sperimentali per dimostrarla. Marat si fece rodere talmente tanto l'anima che quando qualche anno dopo divenne un membro del direttore, divenne qualcuno poteva scrivere una condanna a morte su un foglio di carta, gli mandò i soldati a casa, le guardie della rivoluzione a casa, prendo, gli fece tagliare la testa. Il popolo in piazza fu felice perché vide tagliare la testa all'esattore delle tasse, dimenticando che probabilmente quello era un uomo fondamentale, ci sono voluti secoli per che si riproducesse una genialità simile. Marat, nella sua sottile e cupa invidia di una persona da cui sentiva comunque sopraffatto in doti intellettuali, aggiunse alla lista di coloro che depurava la rivoluzione anche un intellettuale. Stefano Morigi, quanto l'intellettuale nel tempo è stato la causa scatenante delle rivoluzioni e anche il capro espiatorio di tante rivoluzioni. Ma consentimi una precisazione su Lavoisier. Al di là del livore personale di Marat, le ragioni per cui lui fu processato, peraltro si presentò liberamente in tribunale davanti alla giuria, non furono di natura scientifica, ma come ricordavi tu, furono conseguenti alla sua attività, per semplificare, diciamo, di esattore, eppur mostrando lui che da 3 anni più era l'Agenzia delle Entrate del 1789. Pur dimostrando che lui da 3 anni non praticava più quell'attività, finì sotto la infernale macchina del dottore. Allora, fermiamoci solo un secondo perché il tempo è andato avanti velocemente. Lascio un attimo la linea e poco un istante. Mi soffermo su quello che abbiamo messo a punto assieme a Morigi. Vedete che le sintonie e le ricorrenze sono fondamentali. Probabilmente una sorta di ricordo lontano o di memoria genetica che permette che comunque i motivi di disprezzo, di odio e di indiscriminato livore siano sempre trasmissibili generazione in generazione. In realtà Lavoisier citato fu l'equivalente all'Agenzia delle Entrate, l'equivalente della catena dei profittatori e dei dissanguatori del popolo, e quindi per questo gli fu tagliata la testa, e per questo probabilmente al mio amico ascoltatore è venuto in mente il suo nome associato al mio. Ci fermiamo un istante. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Questa mattina vorrei capire, con l'aiuto del pubblico, se mi vuole in questo supportare, se il vero problema è persone che hanno strumenti o chiedono di avere strumenti o forniscono strumenti o si muovono perché tutti abbiano strumenti di elaborazione della realtà, che la realtà è molte volte più complessa di quello che sembra, o in generale soltanto il ragionare viene considerato un delitto. Lo dico perché vi leggo un SMS, dice: è un bugiardo, come dice lei, è un bugiardo perché sta ingannando gli ascoltatori. In realtà lei ha sempre appoggiato la Clinton perché rappresenta il mondo gay, che lei nella sua trasmissione ha sempre difeso nelle loro rivendicazioni. È contro il modo di intendere il cristianesimo, che invece in America ha appoggiato Trump, e lei non è neutrale, quindi molti intellettuali come noi hanno giuito per Trump. E ritorniamo nuovamente a una sorta di quasi di mantra, sempre le stesse cose, sempre basato sul fatto: io penso questo, tu pensi quello. Ma astretevi un attimo dal fatto, datevi una ragione del fatto che non ho fatto campagna elettorale per nessuno, non era questo il mio intento, il mio interesse, ma voglio semplicemente ragionare. Vi dà fastidio semplicemente il ragionamento, vi dà fastidio la necessità di approfondimento, di elaborazione, o volete una realtà fatta semplicemente di bianco e nero? O sei bianco o sei nero, se io sono bianco e tu sei nero, tu non devi esistere. Ritorniamo con Stefano Morigi, filosofo della scienza, che abbiamo interrotto poco fa. Sì, è interessante questa idea dello scollamento. Proprio Lavoisier si dice, non è un fatto accertato ma è una voce piuttosto diffusa, che quando il giudice lo stava per condannare, qualcuno al giudice medesimo ha detto: attenzione, guarda che stai mandando alla ghigliottina un grandissimo scienziato. E leggenda vuole che il giudice abbia risposto: la Repubblica non ha bisogno di dotti, come se i dotti fossero appunto qualcosa di inessenziale, qualcosa di inutile, se non addirittura dannoso. Ora, questa idea dello scollamento, della lontananza, dell'inutilità accompagna da sempre la figura dell'intellettuale. Allora, è scollato se, come dicevano i tuoi ascoltatori, è servito a qualche potere più o meno forte o a qualche chiesa, ovviamente si intende sempre la chiesa che non ci rappresenta. È scollato se non interpreta o se non capisce o se non riesce a prevedere le temperie di un'epoca, del presente o del futuro imminente. Qui sarebbe giusto che rivedesse magari le sue categorie di indagine, certamente. Ma non è scollato quando, per questi signori e per quelli che ti scrivono, quando è banalmente portavoce di una maggioranza o di una qualche minoranza rumorosa. Ma l'intellettuale in quanto tale deve essere scollato da qualsiasi maggioranza, da qualsiasi potere servito, altrimenti se è semplicemente il portavoce di una qualche maggioranza e non aggiunge niente, ma che intellettuale è? Questi signori non vogliono intellettuali, vogliono portavoci. Non a caso, mi pare che ci sia anche un qualche movimento, adesso non voglio scendere nello specifico partitico della situazione italiana, che chiama i suoi rappresentanti cittadini o portavoci. E quindi in quanto tali depensanti, perché non devono far altro che portare la voce di una qualche maggioranza, peraltro deciso su piattaforme che hanno la dimensione di un pianerottolo di condominio. Fermoli un attimo. Angelo, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Sì. Allora, io volevo dire semplicemente questo, sarò brevissimo. Fin dalla preistoria l'umanità è stata divisa in due grandi categorie: quelli che provavano ad utilizzare il cervello e quelli che pensavano unicamente a riempire la pancia. Se non ci fossero stati i primi, forse saremmo ancora dentro le caverne. Allora, a questo punto il problema non è, a mio avviso, l'intellettuale che si piega o si corrompe al potere, ma il potere che, per giustificare se stesso e automantenersi, sceglie gli intellettuali che gli fanno comodo. Con un buon intelletto e con una buona retorica si può argomentare tutto e il contrario di tutto, però questo problema sembra come se io, vedendo un campo pieno di erbacce, dessi la colpa ai semi e non a quello che ci ha messo i semi. È molto chiaro il suo, è chiaro e non c'è nulla da aggiungere, perché è conciso e lapidario. Stefano da Roma. Sì, posso parlare a viva voce? Mi sentite bene? Adesso ti sento bene, sì, così va bene. Perfetto. Allora, ciao Gianluca. No, io volevo solamente dirvi una riflessione che stavo facendo, no? Perché state riflettendo sul fatto per quale motivo, diciamo, tutta una parte dell'intelligenza, la domanda è chi è l'intellettuale fastidioso, che dà fastidio? Perché l'intellettuale deve scomparire? Si richiama in campo la ghigliottina e si dice: guarda, ti taglieranno la testa, perché anche gli intellettuali vanno diciamo tolti da una società che invece nessuno capisce, non state capendo in questo momento. Questa è la domanda. Ma guarda, io volevo riflettere su un argomento simile, nel senso che secondo me ormai non passa più attraverso gli intellettuali, diciamo, la formazione della popolazione, del popolo, del popolino, ma internet è stata una sorta di sana libero tutti, i vari blog, i social media, dove circolano le peggio bischierate che si possono, però formano anche quelli un'informazione, formano diciamo, un'idea nelle persone. Però, scusa, la rete non crea pensiero, la rete diffonde pensiero senza nessuna mediazione. Ho l'impressione di sapere tutto, perché tutto posso trovarlo in maniera veloce e immediata, ma in realtà il compito dell'intellettuale, che parola bruttissima, l'intellettuale l'abbiamo sempre usato in termine dispregiativo, da quando c'era il dottor Goebbels che dice: se me lo nominate metto mano alla pistola, ha tutta l'idea che abbiamo avuto noi che siamo cresciuti alla scuola degli intellettuali organici, che era una sorta di principio di contraddizione in sé: se è organico non può essere intellettuale, come vi ha detto Morigi, di una classe di intellettuali che deteneva il potere di definire cosa dovesse essere la società, mentre la società era tutta da un'altra parte. Però oggi troviamo un bivio abbastanza importante, perché stiamo ritrovando una nuova maniera di voler semplificare per forza ciò che non può essere semplificato. E l'intellettuale, usato nel suo termine più nobile, non nel termine dispregiativo dell'intellettualoide, è la persona che si pone delle domande, che cerca delle risposte, che cerca delle categorie di complessità rispetto alla realtà, che non è così semplice come è descritta. Ci muoviamo tutti, siamo arrabbiati, siamo incazzati, ci sono problemi. I problemi nessuno li elude, nessuno li conosce. Chi parla conosce tutti i problemi che vengono, non è che vivo, che vengono qui enumerati, non è che vivo in una sorta di aura a distanza dal mondo, ma lo sapete perché me ne sono occupato tante volte, dei problemi più difficili, più indicibili, più fastidiosi, delle categorie più reiette, più dimenticate. Quindi cosa può essere di meno intellettuale rispetto a questo lavoro alla radio? Questa è la domanda che ripongo fra un istante, perché ancora una volta il tempo di questa tranche di puntata è finito. Tra un istante. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 0024, stiamo vagando attorno a uno dei problemi che ha maggiormente afflitto il pensiero degli ultimi decenni: chi sia l'intellettuale, qual è il ruolo dell'intellettuale o l'eclissi dell'intellettuale, come qualcuno già scrisse e disse. Nicoletti: il problema è questo conformismo moralistico da criptocomunista che prevale tra gli intellettuali mestieranti. Come anche ieri mi hanno dato del comunista non cripto. Abbiamo al telefono Giampiero Piretto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno all'ascoltatore. Docente di cultura russa, metodologia della cultura visuale all'Università degli Studi di Milano. Ha scritto vari volumi sull'Unione Sovietica, tra cui anche gli oggetti sovietici, la vita privata e gli oggetti sovietici. Ci dice professor Piretto, ma molto velocemente e sinteticamente, nella Russia comunista, l'Unione Sovietica del socialismo reale, qual era la figura dell'intellettuale e il destino dell'intellettuale? Dunque, io identificherei molto macroscopicamente tre tappe fondamentali. La prima è quella successiva alla rivoluzione d'ottobre, che ha raccolto l'eredità di quella che in Russia si è sempre chiamata l'intelligenza. L'intellettuale russo, l'intelligente, era prima della rivoluzione una figura che fungeva da mediatore fra il popolo e il potere. Il popolo si riconosceva nell'intelligente che esercitava il compito di rapportarsi con l'autorità secondo quel principio. Era un capopopolo, però nulla aveva di intellettuale. Era una sorta di capopopolo che parlava entrambe le lingue. Sì, sapeva leggere e scrivere, poteva parlare sia poteva rappresentare gli altri, perché il popolo ha sempre cercato qualcuno che lo rappresentasse. La primissima fase post 1917 ha visto gli intellettuali al potere. I bolscevichi si sono affiancati a intellettuali molto sofisticati e da un certo punto di vista scomodi, quelli dell'avanguardia, e il popolo non si è riconosciuto in questa operazione. Era impensabile che un neoalfabetizzato proletario potesse apprezzare quadri astratti o sperimentazioni poetiche come quelle di Majakovskij, di Chlebnikov e dei suoi colleghi. Quelli erano gli intellettuali affascinati dal cambiamento, la novità, la dissoluzione novità del vecchio mondo antico in qualcosa di fulgido, di meraviglioso. Il nuovo potere politico non aveva trovato di meglio, non aveva pensato, aveva ritenuto ideale che le figure per costruire la nuova cultura proletaria fossero quelli che proponevano già dagli anni 10, quindi prima del 17, ma come tutta l'avanguardia futurista era affascinata dal fascismo, figuriamoci, è sì, comprensibile. Su altri fronti i discorsi sono stati paralleli. Con Stalin dal 28 in poi più o meno torna a vincere la pancia. Stalin capisce che il popolo, o ciò che lui voleva chiamare popolo, non gradiva quel tipo di produzione artistica. C'erano stati peraltro già molte purghe anche negli anni leniniani, come sappiamo, di intellettuali non allineati, poeti, registi, attori, musicisti, erano stati eliminati fisicamente. Stalin, con il realismo socialista, dice che tutto questo era troppo complesso per il popolo, dobbiamo semplificare, quindi abbassare il livello, eliminare la complessità che, come noi crediamo ancora, credo, siamo ancora convinti, è ciò che dà la possibilità di ragionare e di interpretare. Stalin toglie la possibilità di interpretare e impone ai suoi intellettuali un testo già precostituito, qualche cosa che fosse immediatamente comprensibile, che non permettesse una lettura fra le righe e che fosse fruibile dalla cosiddetta massa. Quindi oggi si parla di Stalin che ha ucciso l'avanguardia e la sperimentazione. Altri studiosi sostengono che questa fosse l'inevitabile fine dell'intellettualismo anni 20 e dell'intellettualismo futurista e dei rappresentanti dell'avanguardia. Per essere ancora più sintetico, arrivo alla terza fase, alla terza tappa, il crollo dell'Unione Sovietica e la fine della classe che si era costituita come intelligenza sovietica, diciamo in maniera più esplicita la nomenclatura, quegli intellettuali asserviti al potere, in parallelo ai quali esisteva il dissenso, esisteva una cultura underground e il popolo che sostanzialmente era indifferente agli uni e agli altri. C'era una percentuale piuttosto alta, onestamente, negli anni sovietici di persone che leggevano che la letteratura aveva una grossa diffusione e tutto si muoveva su questi due assi paralleli. Da un lato la letteratura ufficiale, quella che veniva stampata in centinaia di milioni di copie che si ammucchiavano e si impolveravano sugli scaffali delle librerie, e quella clandestina che circolava in samizdat, che veniva letta nelle serate in cui pochi scelti amici si riunivano nelle cucine, e allora la figura dell'intellettuale tornava ad essere mitica, non necessariamente dissidente, ma altro. Allora, questo periodo, visto che siamo però in conclusione, mi dice secondo lei in quale fase ci stiamo trovando noi in questo momento del rapporto rispetto al furor di popolo e l'intellettuale? Un velocissimo, visto che siamo proprio in chiusura, punto di contatto. Della pancia, cioè c'è una sorta di rivendicazione contro i cosiddetti privilegi che gli intellettuali, di cui gli intellettuali avrebbero goduto, e una vendetta che dice adesso è tornato il nostro momento. Quindi non so se si possa parlare di rivoluzione, ma sicuramente di astio e di rancore nei confronti di chi, dal punto di vista di coloro che hanno forse meno strumenti per un'infinita serie di ragioni per poter ragionare e rapportarsi a un testo complesso, tendono invece a privilegiare lo stereotipo, la semplificazione. Quindi siamo esattamente, in una frase che conosco i nostri padri e i nostri nonni, in un momento in cui la gente direbbe ad avvenì baffone, perché è esattamente la fase che lei ha descritto della dissoluzione di ogni complessità propria dello stalinismo. Beh, qualcuno mi scrive questa lezione ridicola, beh, trovate qualche altro maestri e trovatevi altre lezioni, questa è la mia. Alla prossima.